وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. Egli è il primo e l'ultimo, l'apparente e l'interiore. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Egli è l'onnisciente, conoscitore di ogni realtà. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Non c'è realtà come lui ed egli è l'uditore e l'osservatore. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. La nostra sufficienza è Allah, Allah ci basta, ottimo difensore. Ne'ama al-Maula wa ne'ama al-Nasir, ottimo patrono, ottimo soccorritore. Rufranaka Rabbana wa ilaika al-Masir, invochiamo il tuo perdono, Signor nostro, verso te è il nostro viaggio.